Ci colleghiamo con Viale Aldo Moro, in particolare l'Assemblea Legislativa, dove si sta discutendo con una maratona che è andata avanti anche tutta la notte la legge tanto agognata e tanto, come dire, faticosa sulla omo-trans-lesbo-negatività. È un po' quello che sta succedendo, è un po' quello che può succedere quando tornate a casa da un lungo viaggio, siete un po' stanchi e l'ultimo chilometro prima di raggiungere casa comincia una grandinata. Sei d'accordo, Vincenzo Branà? Sì, più che una grandinata, una lunga coda che paralizza tutto e ci fa sentire, come dire, di procedere a passo d'uomo, però è anche, ci sono delle coincidenze in questa vicenda che vanno sottolineate. Ieri era l'anniversario della caduta del fascismo e in quest'aula si è consumata una delle resistenze più eroiche nella storia della nostra regione. Mai era successo che la destra opponesse un ostruzionismo così forte, così ostinato, e va riconosciuto alla maggioranza di quest'Aula la tenacia, la caparbietà di essere rimasti qui imperterriti tutta notte a garantire il voto, il numero legale innanzitutto e il voto contrario a ogni tentativo attraverso gli emendamenti di sabotare questo provvedimento. Quindi anche sul piano simbolico un grande segnale lanciato da questa regione. Certo, ecco, 1800 più o meno sono gli emendamenti presentati appunto dalle destre per fare ostruzionismo. Nella notte ho letto qualche report anche del consigliere Igor Taruffi, addirittura il sistema elettronico di votazione è andato in surriscaldamento, non ce l'ha fatta. Sì, non ce l'ha fatta e come dire, è caduto molto prima dei consiglieri e delle consigliere, che comunque sono vivaci, forti e sul pezzo, riescono, come dire, anche a prendere parola per stuzzicare le destre che ormai sono stremate, che è evidente ormai dalle due di questa notte hanno smesso di prendere parola, quindi il loro ostruzionismo si sta trascinando stanco e del tutto inefficace. Questa è una grande soddisfazione. Certo, quindi non so adesso a che punto siamo come emendamenti, c'è una stima di quando si potrà arrivare alla definitiva approvazione? Guarda, gli emendamenti, il numero di emendamenti precisamente non lo so, siamo all'articolo 4 più o meno, sui 12 che la legge prevede, quindi manca ancora un bel pezzo. Ricordiamo che però l'ordine del giorno di questa seduta non prevede solo questa legge, quindi dopo questa legge i lavori dell'Aula continueranno per approvare tutto ciò che seguiva nell'ordine dei lavori. Durante la notte abbiamo visto cose terrificanti, tragicomiche, consiglieri della destra che si stampavano pagine di Wikipedia per canzonare, diciamo, tutto quello che è la cultura di genere che circola sui nostri temi. E su questo devo dire, creando anche dei discreti paradossi. Per esempio, mi piace sottolineare l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia per inserire in questa legge il riconoscimento dei poliamori, che sono, come dire, il modello familiare che va oltre la monogamia. Ed è un paradosso, no? Chissà se la Meloni a Roma sa che Fratelli d'Italia in questo consesso ha sostenuto questa battaglia. Tra l'altro con un siparietto molto divertente, perché nelle file del PD abbiamo un consigliere che si chiama Poli, che si è sentito di dover intervenire a titolo personale per verificare che il poliamore non fosse l'amore suo, insomma, non fosse una cosa che lo riguardasse personalmente. E c'è una cosa che va detta adesso, stando seri su questi temi, anche nel centro-sinistra ci iniziamo posizioni a volte diverse e attriti. È importante dire che al di là di quei diversi posizionamenti, trovata la sintesi di tutto il gruppo, sta responsabilmente sostenendo questo percorso e garantendo la sua presenza in aula con una stanchezza che potete soltanto immaginare, ma sono qui stoici, sorridenti, che fanno le file per andare in bagno. Cioè, la consigliera Marchetti di Imola è la vera animatrice dell'aula, che tiene i turni del bagno e vieta ai consiglieri di andare in bagno se non hanno la sua autorizzazione. C'è ormai una sorta di occupazione barra accampamento, per cui il caffè, noi poi arriviamo con i genere di conforto. Ieri sera abbiamo portato, come dire, un po' di cioccolato e biscotti, questa mattina siamo arrivati con le brioche. E, come dire, sosteniamo questa maratona non solo idealmente ma anche fisicamente. Durante la notte c'era un fortissimo pubblico ad ascoltare questa seduta, era diventato quasi il place to be, la festa da non perdere. Infatti è questo su cui ti volevo chiedere una battuta, perché anche dalle immagini che circolano, sostanzialmente quella che sta venendo avanti, questa battaglia per arrivare all'approvazione di questa legge, si sta trasformando anche in un evento comunitario, quindi è un valore aggiunto questo. Sì, è un valore aggiunto e soprattutto si sta trasformando nella prova tangibile di una regione che ha un anticorpo fortissimo sulle questioni dei diritti, che lo sta dimostrando concretamente, e chi si sta compattando su quell'anticorpo. Le battaglie per i diritti a volte sono divisive oppure vengono tacciate di esserlo. Qui abbiamo esattamente la dimostrazione del contrario: sulla battaglia dei diritti si è compattata un'intera maggioranza e anche comprensiva dei 5 Stelle, attenzione, perché i 5 Stelle sono ancora presenti in aula a garantire il numero legale e ad abbattere gli emendamenti della destra. Quindi si è creato, come dire, una comunità pensante e battagliera che su questo tema sta esprimendo qualcosa, ed è automatico, viscerale, sentire una forte empatia. Voglio sottolineare che anche la presenza della Giunta in aula, il presidente Bonaccini fa spesso capolino in aula e presenza alla seduta, i banchi della Giunta non sono mai vuoti, l'assessore alle pari opportunità Emma Petitti è sempre presente, pur non essendo votanti, pur non essendo, come dire, contributivi, non contribuiscono al numero legale, una presenza simbolica, valoriale, politica, che significa molto e che, come dire, ci fa sentire orgogliosi di vivere in questa regione. Beh, insomma, finalmente una bella pagina dopo anche qualche incertezza, insomma, come dicevi prima, la cosa si sta risolvendo in questo modo, che forse è il migliore dei modi. Sì, volevi aggiungere qualcosa? No, se non veramente il ringraziamento sentito a tutti questi consiglieri, questi consiglieri, perché come dire, la rappresentanza è spesso, come dire, vissuta e raccontata, soprattutto in regione dove ci sono stati dei trascorsi giudiziari, è stata raccontata come uno Stato. Viviamo i nostri rappresentanti a volte come una persona privilegiata, invece la rappresentanza è non solo un onore ma un onere, e il modo in cui queste persone ci stanno rappresentando è un modo forte che mi colpisce molto personalmente, quasi mi commuove. Grazie mille allora, Vincenzo, insomma, buon proseguimento anche ovviamente alle consigliere e ai consiglieri, e insomma speriamo di arrivare in giornata all'approvazione definitiva. Grazie mille. Grazie a voi.